Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Chiacchierano in maniera simpatica i due, anche se per la verità parla molto di più lei. Dire che appaia divertita è quasi un eufemismo. Ride e fa bella mostra dei denti bianchi, scatenata da non so quali battute di lui. Impassibile, con un mezzo sorriso modesto sulle labbra, pare ottenere un discreto successo. Mi chiamo Vittorio Massimo, sono di Treviso, ho 32 anni e faccio l'architetto. È venerdì, è l'ultima puntata di questa nuova settimana, di questo nuovo corso in cui chiudiamo uno zic prima. Ormai è passato questo termine, vale definire zic. Tiziano sembra perplesso, però ormai l'abbiamo coniato e lo teniamo così. Dicevo, finisce questa prima settimana del nuovo palinsesto di Radio 24, siamo un po' più condensati, ma di fatto continuiamo a raccontare storie. E oggi chiudiamo con la storia di Vittorio Massimo, che ha un po' a che fare, diciamo, con l'essenza di questo programma, che è quella di raccontare storie. Diciamo, ha un po' a che fare con l'essenza di questo programma e un po' con la filosofia lombrosiana, per cui guardi delle facce e ti fai un'idea di chi possa essere quella persona, quindi è un po' a metà strada. Però questo è un gioco che capita di fare, forse viene istintivo, no? Di trovarsi in una situazione di attesa, come ad esempio su un mezzo pubblico o in una sala d'attesa qualunque, in cui ti trovi di fronte delle persone per un certo periodo di tempo, persone che non conosci. Le guardi, le osservi e ti fai un'idea su chi siano, no? Non è nulla di che. Poi ci sono, diciamo, quelli che sono bravi, che sono gli scrittori, ci inventano dei personaggi, gli altri invece come noi semplicemente li guardano e provano a immaginarsi chi potrebbero essere. Dopo il racconto, stavo per dire nella seconda parte, ma non c'è più seconda parte, quindi dopo il racconto, prima di chiudere, avrò il piacere di sentire Marina Viola, che è figlia di Beppe Viola, oltre che una scrittrice, una persona molto capace, che ha scritto un libro molto interessante che si intitola Mio padre è stato anche Beppe Viola. Beppe Viola, tra le varie cose, insomma, personaggio di culto, giornalista sportivo della Domenica Sportiva, della Rai, eccetera, eccetera, è stato anche però collaboratore di Annacci, scriveva per Cochi Renato, una di quelle figure sfuggenti che stava tra il giornalismo sportivo, la scrittura e il cabaret all'epoca. Dopo sentiremo Marina Viola, perché Beppe Viola, insieme a qualcun altro, poi ce lo racconterà meglio lei, è stato l'inventore, ma così, en passant, in un bar, guardando la gente che passava, di quello che lui stesso aveva chiamato l'ufficio facce. Non ve lo spiego, lo spiegherà più tardi Marina, però è già chiaro che cos'è l'ufficio facce, oltre ad essere un nome e ad avere un suono straordinario. È quella cosa per cui guardi una faccia e dici, quello c'ha la faccia da... 349-238-6666, Giulio sul profilo Facebook del programma ha già scritto: ho incontrato un tizio sotto casa mia e ho pensato che fosse un venditore di qualcosa. Quando è salito, insieme a mia sorella, ho capito che sarebbe diventato mio cognato. 349-238-6666, dicevo, quel tizio lì c'ha una faccia, quel tizio lì c'ha una storia. Nella puntata di oggi in realtà è quei due tizi lì, c'hanno due facce e c'hanno due storie, e poi in realtà è una storia diversa. Paola mi scrive invece: non mi faccio mai influenzare dalla prima impressione, ma quando ho incontrato il mio nuovo capo aveva la faccia di chi è finito lì senza sapere il perché e senza preparazione. Invece è il miglior capo che io abbia mai avuto. Sul profilo Twitter invece del programma, che è Voi siete qui R24, Saverio dice: gioco a calcio con uno che ha la faccia di uno buonissimo e invece è una pippa. Che è vero, ci sono quelli che hanno la faccia di essere buoni a fare qualcosa e dice, secondo me quello gioca a tennis in un modo, oppure secondo me quello scrive benissimo, appunto gioca a calcio, e invece è una pippa. Torniamo alla puntata di oggi, è la storia scritta da Vittorio Massimo. Ma scusa Margherita, Vittorio Massimo, nome e cognome? Vittorio Massimo? O si chiama, sono Vittorio Massimo Decimo Meridio? Vabbè, ho detto nome e cognome, di solito dico solo il nome. Tant'è, dicevo, oggi è una storia che parla di facce e che parla soprattutto di due persone. In metropolitana le facce sono sempre diverse, eppure così incredibilmente simili. Seduto nel mio seggiolino blu, oltraggiato da scritte immodeste, osservo i volti senza espressione. Forse il grigiore delle pareti, lo sporco dei vagoni, l'impossibilità di vedere l'azzurro del cielo non aiutano questo clima mesto e piatto. Perfino i vestiti appaiono grigi. Le borse, le scarpe, gli ombrelli, tutti sembrano di un solo colore. In realtà, vivendo in una città dove la metropolitana non è presente, non la prendo così spesso, però lo trovo un luogo affascinante. Poi quella di Milano in particolar modo mi muove sempre riflessioni di tipo umano e urbanistico, sociale, architettonico. Ecco. Spostata verso destra e fino all'ultima fermata nascosta da un gruppo di turisti, siede una coppia di ragazzi, direi sulla ventina. Che l'attenzione cada su loro è inevitabile. Lei molto bella, indossa jeans e un maglione multicolore. Ha scarpe di un beige chiaro, i capelli di un colore simile, mollemente adagiati lungo le spalle, mossi. Gli occhi sono azzurri, molto chiari. Le labbra carnose non hanno bisogno di alcun belletto, come il resto del suo volto. Il ragazzo alla sua destra, per carità, non è brutto, ma nel suo viso comunque grazioso denuncia quel non so che di banale e a voler essere cattivi, quasi sciatto. Porta anche lui i capelli lunghi, legati in una coda vaporosa. Ha gli occhi castani come i capelli, un naso normale, delle labbra normali e parrebbe un fisico nella media, normale, né magro né grasso. Chiacchierano in maniera simpatica i due, anche se per la verità parla molto di più lei. Dire che appaia divertita è quasi un eufemismo. Ride, fa bella mostra dei denti bianchi, scatenata da non so quali battute di lui. Impassibile, con un mezzo sorriso modesto sulle labbra, pare ottenere un discreto successo. Eppure il suo volto ha un che di triste, e mentre sorride del sorriso di lei, i suoi occhi pensano solo a quanto sia bella lei, a quanto sia bello vederla felice. È difficile non essere complici di questo Romeo non corrisposto. Quante volte ci si è trovati a sostenere intimoriti dialoghi potenzialmente piacevoli, senza ascoltare nulla, divorati dalle fattezze dell'interlocutrice. Quanto grande sarà il disinteresse del nostro nei confronti di quel tenero chiacchiericcio così consapevole alla vicinanza della felicità, così prossima e così lontana. Quanti sogni si staranno accavallando nella sua mente, sogni semplici, terribilmente realizzabili, ma ora ben più complessi della conquista della luna. Penso che gli sono vicino, penso alle occasioni mancate, ai volti desiderati e mai avuti, agli sguardi abbassati, ai dolori trattenuti. Combatti, non desistere, tenta almeno. Tenta che la congiura della bellezza contro gli amori repressi da oggi abbia termine. Che anche il buon mediocre troppo sensibile vinca questa lotta impari. È un voler ritirare fuori certi ragionamenti che forse sono più di stampo adolescenziale o comunque più giovanili, che chiamano insomma le situazioni in cui ci si innamora magari di ragazze più grandi, troppo difficili, tra virgolette irraggiungibili, e questo crea dei turbamenti, dei pensieri che poi sfruttano in età molto giovane, portano a mille ragionamenti che poi visti col passare del tempo suonano un po' bambineschi, un po' retorici. Il convoglio rallenta, la stazione è prossima. Mi desto di colpo dalle mie speculazioni retoriche bambinesche e un'ultima volta guardo il triste volto di lui mentre i due si apprestano a scendere. Nel vagone ormai semivuoto le porge il passo e le si affianca appoggiandosi al palo metallico. Una voce registrata annuncia la stazione. Lei gli regala un altro sorriso. Con una mano gli cinge la vita. Il treno si ferma, le porte si aprono e sotto i miei occhi si scambiano uno dei baci più appassionati che abbia mai visto. You know I tried so hard. My feelings just can't describe the way in which I fell into your heart. It was never what I wanted. Lately my skull was kept dividing lines deep set and paved two paths to wonderful. Depart and sever desires to pursue, and the soul chose to cause the tide to enforce the vine. This old erosion is more than time. I'll score mine, store my crime. Read slow motion to coin the mind. See, here I trace my steps to where my senses left and brain to my sense too much. This slowly seeping straight through the crust. Now let these stains of gum slip down to where my head once sunk and drowned. Just to wait for a while to see my body has merged to the deep cruel sea. Da anni in città mi muovo solo in Vespa. E devo dire che un po' manca quel tempo guadagnato in tram e in metropolitana. Quel tempo che può davvero essere guadagnato, se si decide di non perderlo. Ormai tra libri e smartphone, quando ti siedi o ti appoggi a un sostegno in metropolitana, puoi trasformare quel tempo in qualcosa di utile. La storia di Massimo racconta il modo in cui lui riempie il tempo sui mezzi pubblici, osservando le persone e cercando di capire chi sono. Qual è il loro passato, il loro presente e i loro desideri. E come ammette in finale, non sempre ci azzecca. Quando ero arrivato a Milano, passavo moltissimo tempo sul 4. Il 4 è un tram di quelli vecchi e gialli, che ci sono più o meno solo a Milano, quelli corti, spigolosi, con le panche in legno. Partiva dal quartiere di Greco e arrivava dall'altra parte della città, passando dal centro, dove c'era la scuola di teatro che frequentavo, e mi portava in Porta Romana, dove avevo trovato il mio primo appartamento milanese. Una sera, alla fermata Missori, quella dopo la mia, salgono tre o quattro persone, tra cui una ragazza carina, scura di carnagione, dalla porta davanti, e un ragazzo, da quella dietro. Si siedono lui alla mia destra e lei sulla panchina di fronte. La guardo un po', ma lei non mi guarda, e legge un libro. Dopo una fermata, lui le chiede che libro stia leggendo, e lei risponde. E lo ricordo benissimo, dice Due di due di Andrea De Carlo. Io sono affascinato dalla sfacciataggine di questo tizio che io non ho e che invece mi piacerebbe avere. Lei riprende a leggere, lui non molla. Le dice che conosce il libro, che secondo lui è un po' sopravvalutato. Lei sorride e non parla. Tempo due fermate, lui si è alzato e le si è piazzato di fronte. Le fa un complimento, ma lei non risponde, anche se si scosta i capelli da un lato, aggiustandoli dietro l'orecchio, che all'epoca non avevo idea di cosa significasse, poi invece qualche idea me la sono fatta. La signora seduta accanto alla ragazza si alza e lui subito le si mette a fianco. Io sono quasi tentato di chiederle se la sta infastidendo, ma in fondo sono un pavido e poi penso che saranno ben fatti loro, no? Poi a un certo punto, lei, all'ennesima domanda di lui, fa una cosa impercettibile, piccolissima. Gli dà un buffetto su una coscia col dorso della mano e sussurra qualcosa a mezza bocca tipo «Dai, smettila». E poi sorride di nuovo. Ecco, io improvvisamente ho la sensazione che loro stiano facendo un gioco di cui io sono spettatore, o che addirittura io sia cascato in un gioco che ha bisogno di spettatori per funzionare. E la conferma ce l'ho proprio quando arriva la loro fermata, Crocetta. I due scendono dalla porta centrale, lei davanti e lui dietro. E quando sono sul marciapiede, lui la afferra per il braccio e si baciano. Io rimango come un babbo a guardarli, pensando a come le storie e le facce che pensiamo già di conoscere spesso si prendano gioco di noi. Yeah. ha una foto che è stata effettata, Vittorio Massimo, cioè ci ha messo gli effetti quelli banali di Ipstamatic o quello che è, no, sembra proprio la vignetta di Twitter, presente Twitter quando puoi selezionare vignetta, ecco, è così, è un autoscatto per forza, e Vittorio c'ha una faccia un po' perplessa, ha la barba di 3 giorni, proprio come va di moda adesso, i capelli con una calvizie che un pochettino avanza, ma tranquillo Vittorio Massimo, quella che abbiamo tutti noi, una bella camicia bianca, una bella giacca, insomma, un tipo elegante. Visto che oggi parlavamo di facce, parlavamo delle storie che hanno a che fare con le facce delle persone, le storie che ci immaginiamo, a me è venuta in mente una storia che di fatto ha un titolo, che si chiama Ufficio Facce, che è una cosa che è stata inventata tra gli altri da Beppe Viola, e visto che ho avuto la fortuna di conoscere la figlia di Beppe Viola quest'estate, ho detto perché non la chiamiamo anche se sta a Boston. Pronto Marina? Pronto, ciao. Ciao, bene, tu come stai? Bene, bene, grazie. Come va lì a Boston? Va bene. Più vicino, ma va bene. Benissimo, un po' tipo qua, quindi, più o meno. Grazie. Marina Viola è stata anche la figlia di Beppe Viola, parafrasando... Ti è piaciuta questa, Marina, che ho tirato fuori? Mi è venuta fuori così. Marina è una brava e giovane scrittrice italiana, questa è la verità, la potete leggere tra le altre cose su un blog di Smemoranda che si chiama Marina, prima abbiamo fatto una ricerca incredibile, Cose dell'altro mondo. Ok, giusto. Vive a Boston con la sua famiglia e ha scritto di recente per Feltrinelli un libro che si chiama Mio padre è stato anche Beppe Viola, in cui sostanzialmente racconta, correggimi se sbaglio Marina, racconta il personaggio Beppe Viola visto da casa, cioè visto dalla famiglia, giusto? Giusto, giusto, sì. Cioè un modo per conoscerlo con gli occhi di una delle... Siete 4 figlie, giusto? 4 femmine, sì. Mi ricordi i nomi delle 4 femmine? I nomi sono Renata, io, poi c'è Anna e poi c'è Serena. Mi racconti invece con gli occhi non della figlia ma di chi comunque lo conosceva, per chi non si ricordasse chi è Beppe Viola, chi era Beppe Viola? Allora, tecnicamente era un giornalista sportivo della Rai, però poi ha fatto anche tantissime collaborazioni con Iannacci, ovviamente con cui era amico di infanzia, Cocchi e Renato, ha scritto dei dialoghi per Monicelli, per la Vermuller, insomma ha fatto un po' di cose al di fuori del lavoro Rai e si è divertito tantissimo. Insomma era difficile da afferrare, nel senso che lo si chiama giornalista, però era esatto. Molto di più. Per capirci, quelli che l'ha scritta lui e Enzo Iannacci, giusto? Sì. Sì, l'hanno scritta loro insieme a Bordighera, nella nostra casa del mare di Bordighera. Anche se poi mi ricordo quest'estate quando abbiamo avuto modo di incrociarci e c'era la tua mamma e la tua zia diceva perché quelli che l'abbiamo scritta noi in spiaggia a Bordighera. Tutti insieme, sì, ma ci sono molte leggende su quelli che, però insomma... Pare che fosse una cosa un po' di gruppo, certe volte dicono di gruppo, certe volte no, insomma non lo so, non ho capito bene. E invece siamo qui Marina perché diciamo la puntata di oggi ha a che fare con le facce e le storie delle persone e io ogni tanto mi capita di andare in una pasticceria, caffetteria, bar, insomma chiamiamolo, un milanese che è molto famoso, si chiama Gattullo, che è stato un luogo, e tu lo racconti molto bene anche nel tuo libro, Mio padre è stato anche Beppe Viola, è stato uno dei luoghi in cui il tuo babbo e quel giro, no? Cocchi e Renato, Enzo Iannacci, sì. Si trovavano per lo più, tra l'altro, fuori dall'orario d'apertura anche, giusto? Sì, spessissimo sì, perché andavano a giocare a carte. E quindi arrivavano, bussavano alla saracinesca e il signor Domenico, che è ancora lì, insomma, se capitate a Gattullo, è il signore... Sì, anche lui giocava a carte, per quello andavano dopo. Che fa tra le altre cose i panini e faceva parte di questo gruppo. E lui stesso un giorno mi ha raccontato che questa cosa che gira ancora, l'ufficio facce, ogni tanto Abatantuono ne parla, credo che Abatantuono sì. Abbia fatto anche una specie di sorta di formato televisivo, o mi sbaglio? Che sì, chiama? Credo anch'io, sì. È nata di fatto lì, è nata in un modo per cui Beppe Viola ed Enzo Iannacci si sedevano a un tavolino, guardavano le persone che entravano e dicevano quello ha una faccia da interista o quello ha la faccia di uno che lavora in banca. E allora ho detto sentiamo Marina Viola che essendo la figlia ne saprà sicuramente più di me, anche se ho scoperto che in realtà Marina non era esattamente così. No, esatto, io ne ho sempre sentito parlare di questo ufficio faccia, però non ne conoscevo l'origine. E per cui ho chiesto a Coti, Contoni, di Coti Renato l'ho chiamato, e gli ho detto dimmi un po' questo ufficio faccia da dove deriva. Mi ha raccontato la storia vera, che dell'ufficio facce, che in realtà era un'invenzione di un certo Co Bianchi, che era il proprietario di un praticamente un cesso di urno in Piazza Duomo, che adesso non c'è più. Cioè un Vespasiano. Sì, era un coproprietario lui e i suoi fratelli. Ok. E lui aveva inventato questo gruppo che si chiamava Ufficio Facce. Okay. E decideva lui poi alla fine, a pelle credo, chi ne facesse parte. La cosa più importante era ovviamente essere milanista, per cui mio padre ne fece subito parte. Cocchi mi diceva un po' come un Facebook all'antica era. Non è male l'ufficio facce visto come un Facebook all'antica. Cioè, ma quindi, scusami, non ho capito, la cosa era che l'ufficio facce si riuniva, guardava un tizio e diceva... No, credo che l'origine sia questa qui, dell'ufficio faccia di questo Co Bianchi, che poi lo chiamavano Cotechini perché a lui piaceva molto mangiare il Cotechini. Ok. E credo che abbia divertito moltissimo mio padre e i suoi amici, che poi quindi adottarono questa idea dell'ufficio faccia per poi, credo, proprio sedersi a tavolino e da lontano dire cosa era fatto da milanista e faccia interista. Poi certe volte lo ci andava a chiedere, certe volte... No. No, ok, però rimaneva l'idea dell'ufficio facce. Marina, senti, io purtroppo ti devo salutare, però mi racconti velocemente l'episodio dello stadio di San Siro, in cui non ricordo più se tu o tua sorella riuscita a farvi portare al Meazza, dove insomma tuo babbo andava per lavoro, e succede una cosa legata a chi è quel signore vestito di nero? Esatto, mia sorella che voleva fare quella che si interessava di calcio, ovviamente non ne sapeva assolutamente niente. Durante la partita chiese a mio padre, ma quello vestito di nero da che parte sta? E mio padre, senza neanche parlare, la prese e la portò alla stazione della metropolitana e dice, no, adesso vai a casa. E lì finì la nostra relazione col calcio, credo per sai. E tua sorella Anna più o meno quanti anni aveva? Avrà avuto 7-8 anni. Ed è tornata in trama a casa, che voi stavate dall'altra parte della città rispetto allo stadio di San Siro. Era un po' una caratteristica di mio padre non preoccuparsi affatto di... Scusa, c'è un altro episodio nel tuo libro, e poi saluto, bellissimo, che è che tuo babbo regala una bicicletta, non mi ricordo più... Arrivata. A chi? Scusami? A Renata, che è un'altra sorella, e quando gliel'ha comprata gli dice, benissimo, adesso vai a casa in bicicletta. E lei da bimba torna a casa in bicicletta, fino a che tua mamma lo chiama e dice, ma dov'è finita? Ed è preoccupatissima, e lui è stupito del fatto che sia preoccupata, perché dice, beh, ma è passata solo un'ora, ci metterà almeno un'ora e mezza ad arrivare a casa. Questo, esatto. Questo è stato anche Beppe Viola, e potete leggere questa storia, è molto di più, perché parla di questa città, parla di questo paese, e parla di una storia legata proprio a un'epoca che è passata, però forse c'è ancora. Mio padre è stato anche Beppe Viola di Marina Viola. Marina, grazie mille. Grazie a te, Matteo. Buona giornata. Buona giornata. Ciao, grazie. Io ringrazio, visto che siamo lunghissimi, ringrazio quelli che hanno reso possibile questo programma, che sono Tiziano Bonini, Margherita Ina, Paolino Corleoni e soprattutto Vittorio Massimo, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sara, vivo a Rossana in provincia di Cuneo, la storia di lunedì è la mia e parla degli scherzi che può giocare la natura. Questa è la mia storia e io sono qui.